24 2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi una nuova puntata di 2024. Benvenuti o bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Come sempre vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi, 2024, quindi 2024 e radio24.it. Potete utilizzare Facebook, Twitter e naturalmente anche il nostro sito internet sul quale trovate tutte le nostre puntate, www.radio24.it. Iniziamo con le nostre notizie in breve, le nostre Digital News. Digital News. Siamo sempre in attesa del o dei decreti attuativi del piano banda ultralarga che il governo ha approvato il 3 marzo, ma visto che la strategia di Palazzo Chigi si interseca con le trattative per fare diventare MetroWeb la società che possa portare la fibra in tutta Italia, va registrato un incontro molto importante che Matteo Renzi ha avuto con i vertici di Telecom Italia per parlare dei piani dell'azienda per l'infrastruttura. Tutto ciò quando quasi tutti i grandi protagonisti, player del mercato negli ultimi giorni e anche l'autorità antitrust ritengono poco opportuno che le risorse pubbliche che verranno messe a disposizione da questo piano strategico per la banda larga vadano ad operatori come Telecom Italia. E su questo naturalmente si gioca molto la credibilità di Matteo Renzi, che sul tema si è speso molto, addirittura inserendo alcune parole molto forti nel programma con cui lui si è presentato alle primarie del PD qualche anno fa, dicendo, mettendo molto accento sul fatto che la rete debba essere di proprietà pubblica, e quindi su questo si gioca proprio la credibilità di Renzi. Vedremo. Digital News. Continua lo sviluppo di Skype Translator, che da questa settimana introduce due nuove lingue parlate, allora l'italiano e il cinese mandarino. Queste lingue si aggiungono allo spagnolo e all'inglese. Allora, chi ha Windows 8.1 può provare questo nuovo servizio, molto bello, molto interessante, molto utile direi. Traduce queste quattro lingue e permette quindi a, ad esempio, due persone, due interlocutori che stanno parlando tramite Skype, due interlocutori che non conoscono l'uno la lingua dell'altro, di fare una conversazione, perché il sistema, uno parla nella sua lingua, il sistema traduce nella lingua dell'interlocutore e viceversa. Dobbiamo ancora provare questo servizio perché, devo dire, non ho trovato un interlocutore che avesse Windows 8.1, ma sicuramente nella release prossima Windows 10 questo servizio si diffonderà, visto che la versione numero 10 di Windows è disponibile, sarà disponibile gratuitamente anche per chi ha Windows 7. Noi nella nostra redazione abbiamo Windows 7. Digital News. Però LinkedIn spenderà 1,5 miliardi di dollari per acquisire Lynda.com, che è un portale americano specializzato in educazione. Su Lynda ci sono migliaia di video che insegnano a programmare o ad usare la tecnologia. È un sito piuttosto diffuso proprio su questi settori, soprattutto tecnologici. Digital News. Disponibile da pochi giorni la versione web del Messenger di Facebook. Con un PC si può quindi usare questo Messenger invece di usare l'applicazione andando su messenger.com. Digital News. Un'ultima notizia riguarda i supercomputer. Il governo degli Stati Uniti ha vietato all'Intel e ad altre aziende americane di esportare, in modo particolare a Intel, i propri processori in Cina per aggiornare e potenziare il Tiane 2, che attualmente è il supercomputer più potente al mondo. La motivazione ufficiale è che i cinesi utilizzerebbero la potenza di calcolo di questo calcolatore per fare studi su armi nucleari, ma sappiamo che oramai i supercomputer sono uno strumento di ricerca su vari fronti e le nazioni più competitive al mondo hanno grandi macchine. Gli Stati Uniti sono secondi in classifica, ma stanno facendo degli upgrade, potrebbero diventare numeri uno. Sapete che c'è una classifica che viene aggiornata due volte all'anno, a novembre e a giugno, la top 500. L'Italia comunque non è messa malissimo, siamo stati entro la top 10 per qualche anno. Adesso abbiamo un supercomputer dell'ENI, del grande centro di calcolo dell'ENI, che è stato inaugurato un anno fa vicino a Milano. È al 12° posto e al 23° posto c'è il Cineca. Potenza di calcolo uguale competitività di un paese. Notizia dell'ultimo giorno della settimana, proprio in extremis di settimana, Mobit, che è una società attiva nel mobile marketing, ha annunciato di aver acquisito per 5 milioni di euro Mobile Solution, che è nota in Italia per il marchio Skebby, ovvero uno dei principali player nel servizio di messaggistica professionale basato su SMS. Diciamo SMS all'ingrosso per le aziende. Grazie a questa acquisizione Mobit diventa il numero uno in Italia in un mercato che continua a crescere, questa è una cosa interessante. Allora, che cosa sono questi SMS professionali e perché questo mercato continua a crescere? Ne abbiamo parlato con Giorgio Nani, che è l'amministratore delegato di Mobit. Sono quelli utilizzati direttamente dalle aziende per promozioni, specificamente, quindi vuol dire che l'utente richiede direttamente il servizio a, non so, al retailer di turno, ad esempio per ricevere informazioni o promozioni specificamente per alcuni tipi di prodotti che ha prescelto. In questo modo il retailer non fa altro che creare delle rubriche profilate in maniera che invia al cliente che ha richiesto il servizio solo informazioni che sono rilevanti per il cliente stesso. Stiamo parlando anche dei servizi informativi che ne so che ci arrivano dalla banca, dalla carta di credito? Esattamente, esattamente. Anche il dentista, il commercialista, i reminder di appuntamenti di vario tipo, il recovery delle password, insomma un sacco di servizi. Diciamo che il 50% del nostro mercato è promotion, quindi mobile marketing, ma il restante 50% è service, è chiamato così quello che è il reminder, diciamo, di appuntamenti piuttosto che recovery delle password, del sottoconto, sì, eccetera eccetera. Quindi 50% pubblicità, l'altro 50% servizi, che possono essere servizi informativi oppure mi ricordi un appuntamento, che ne so, io recentemente ho ricevuto dal mio gommista un SMS che mi diceva: guarda, il tal giorno, la tal ora devi venire a cambiare le gomme. Senta, in un mondo dove crescono moltissimo i social network tipo WhatsApp, ma non solo, i sistemi di messaggistica istantanea, che senso ha ancora l'SMS? Beh, diciamo che è un servizio trasversale che va su tutti i tipi di telefoni, diciamo, quindi completamente, quindi non importa avere lo smartphone. Detto questo, quando mai un retailer inserirà il milione di contatti che ha direttamente su un software proprietario di altri? Questo è il punto, eh? Il punto è questo qua. Perché mai dovrebbe condividere la sua rubrica o il suo database dei contatti con un'azienda praticamente che controlla uno di questi, diciamo, software che lei mi ha elencato? Sì, un social network. È esattamente, sì, questo. Cioè, diciamo, il WhatsApp della situazione viene usato più che altro per il peer-to-peer, cioè il person-to-person, ma a livello di marketing intanto non è permesso, da questo punto di vista, ma anche se lo fosse, condividere i contatti con diciamo un'azienda del genere che controlla WhatsApp diventerebbe un problema veramente grosso. Quindi da un certo punto di vista sembra quasi strano, a volte commentiamo notizie della calo degli SMS che vengono erogati nel mondo, invece per questo tipo di servizi il business è in crescita. Eh sì, è in crescita perché funziona. La differenza tra ricevere un SMS che ha un tasso d'apertura del 99% e ricevere un'email è che io ricevo, adesso sto guardando in questo momento, che ho 600 email non lette e 0 SMS non letti. Questo è il punto. Il punto è che l'SMS lo apro e lo leggo, le mail forse lo leggerò stasera o forse domani o forse non lo leggerò nemmeno. Quindi il punto è esattamente quello, c'è una cosa che funziona. Beh, sul fatto che funzioni non c'è dubbio, Ovviamente chi fa email marketing non sarà d'accordo con quello che ha detto Nani, ma direi che c'è spazio per entrambe le soluzioni. Sicuramente questa settimana mi scriveranno tutti quelli che fanno email marketing e mi spiegheranno le loro buone ragioni, che esistono e ci sono. Allora, l'acquisizione di Skebby ha anche il giusto riconoscimento per Davide Marrone, che ha fondato Skebby nel 2007 grazie al supporto di alcuni investitori, ma anche grazie alla sua tenacia. Ricordiamo che Davide aveva sfruttato un viaggio in treno tra Ancona e Milano per illustrare la sua idea ad uno di questi investitori, che poi ci ha creduto, ma ripeto, anche grazie alla tenacia di Davide. All'epoca Skebby era la prima applicazione per cellulari al mondo per inviare SMS gratis via internet da qualunque telefonino. Adesso parliamo di un progetto per portare banda larga in una valle della provincia di Brescia, la Val Sabbia, 25 comuni, 60.000 abitanti. È uno dei tanti progetti, uno dei tanti bandi che in varie zone d'Italia mettono a disposizione risorse pubbliche, denaro pubblico, per portare la rete dove non investono direttamente gli operatori di telecomunicazione. Ci sono anche altre aree ancora più remote dove lo Stato investe direttamente, ma qui siamo in una di quelle aree dove lo Stato investe una parte del denaro, sono prevalentemente fondi europei, un'altra parte invece viene investito dalle società di telecomunicazione. Stiamo parlando degli ultimi bandi della vecchia programmazione europea, in attesa che si stabiliscono le regole del gioco per la nuova programmazione. Ne parliamo tutte le settimane di questo piano a banda ultra larga che è stato approvato dal governo, ma di cui mancano i decreti attuativi. Ma in attesa che arrivino queste nuove regole del gioco, parliamo di alcuni progetti che concludono questa programmazione europea con questo 2015. Allora, la particolarità di questo progetto, del progetto di cui vogliamo parlare nei prossimi minuti, è che in modo molto lungimirante la comunità montana della Val Sabbia ha risparmiato per 3 anni risorse destinate ad opere pubbliche. Avrebbero potuto fare piazze, campi sportivi, tante opere che sono sicuramente utili, ma giustamente io sono d'accordo con questi amministratori pubblici, hanno detto: ma oggi l'infrastruttura più importante di cui dobbiamo dotare il nostro territorio qual è? La banda larga. Questa è l'infrastruttura più importante, e con grande, direi anche coraggio, ma molta lungimiranza, queste persone hanno risparmiato soldi, non li hanno, non dico sprecati per altre opere, ma sicuramente impiegati per altre opere che ad oggi, nel 2015, 2016, 17, 18, eccetera, eccetera, eccetera, hanno un valore strategico per la popolazione molto più basso rispetto alla banda larga, alla fibra ottica, alla rete di telecomunicazioni. Allora, parliamo di questo progetto, ne abbiamo parlato con Daniele Peli, che è l'amministratore delegato della Intred, che è la società di telecomunicazioni che si è aggiudicata questo bando e che naturalmente investirà denaro e realizzerà questa infrastruttura. L'obiettivo di questo progetto è duplice. Il primo è quello di portare connessioni in banda ultralarga a tutte le pubbliche amministrazioni, a partire dai municipi, le scuole primarie e secondarie. Banda ultralarga intesa come connessioni fino a 100 megabit, o meglio con 100 megabit di banda garantita, entro la fine di quest'anno, e entro 5 anni queste connessioni a 100 megabit dovranno arrivare fino a 1 gigabit. Poi c'è un'altra fascia di utenza della pubblica amministrazione che verrà raggiunta con connessioni tra i 30 e i 50 megabit. Questo è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo è quello di portare la banda ultralarga alla popolazione, alle aziende, agli studi professionali, e anche questa verrà fatta in due modalità: per le aziende più grandi direttamente in FTTH, quindi in fibra che arriva direttamente all'utenza, e la seconda, l'utenza di fascia più bassa, quindi micro business e residenziale, con il sistema dell'FTT CAB, quindi con connessioni tra i 30 e i 60 megabit. Continueremo a parlare di questo progetto tra un minuto. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, a tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Più tardi sarà con noi anche Gianfranco Giardina, torna il direttore del magazine digitale di Day.it, per parlare di piccolo e grande schermo. E voi starete pensando alla TV e al cinema. No. La TV in qualche modo c'entra, però piccolo e grande schermo sono due punti di riferimento diversi dai classici. Sta cambiando tutto il mondo. Parleremo tra poco anche di una macchina da caffè che verrà spedita nello spazio la prossima settimana. Adesso stiamo parlando di un progetto, di uno dei tanti progetti, devo dire che in Italia, grazie ai fondi europei, si sono finanziati progetti per portare banda larga in zone dove non investono gli operatori, e paradossalmente nel sud Italia c'è più banda larga che nel resto d'Italia, perché lì sono arrivati più fondi, e questo sicuramente è un tema di dibattito, di approfondimento. Comunque, noi stiamo parlando di un progetto che è stato presentato questa settimana in Valsabbia, siamo in provincia di Brescia, dove la comunità montana ha risparmiato soldi per 3 anni e non li ha utilizzati per altre infrastrutture, per altre opere pubbliche. Ha risparmiato 2 milioni e 600 mila euro, quindi non una cifra incredibile, ma sicuramente per una comunità montana di 25 comuni una cifra importante. Li ha risparmiati per investirli in una rete di telecomunicazioni, in fibra ottica. A questi soldi verranno aggiunti 3 milioni che verranno investiti dalla società che realizzerà questa opera, che ha vinto, che si è aggiudicata il bando. Si tratta della Intred. Ne abbiamo parlato con Daniele Peli, che poco fa ci raccontava quali erano gli obiettivi del progetto, ma al quale abbiamo chiesto un parere sulla lungimiranza di questi amministratori pubblici. E sicuramente ci devono essere delle condizioni al contorno, quindi magari deve essere una zona dove vengono destinati soldi pubblici per fare una determinata opera, quindi questo non vale per tutta Italia, ma sicuramente poi, una volta che hai i soldi, devi anche decidere come investirli, e questo serve di lezione a molti altri amministratori che magari non hanno compreso che la fibra ottica, la banda larga, è molto molto importante. Sentiamo di nuovo Daniele Peli. Possiamo dire che sono stati molto lungimiranti, perché hanno creduto a un progetto molto ambizioso, che sappiamo tutti quanto è importante l'infrastruttura telematica oggi, che però non si vede più di tanto, magari i campetti da calcio piuttosto che altre infrastrutture che si vedono di più anche dal punto di vista, diciamo, elettorale, sono più politicamente più richiesti. Sicuramente, quindi era più facile investire su questi progetti che si vedono molto bene e rendono dal punto di vista elettorale. Qui bisogna riconoscere, sono stati molto bravi, perché hanno creduto a un progetto che però darà grande sviluppo a questo territorio, che in questo momento magari sta soffrendo proprio il problema del digital divide. Sì. Senza fondi pubblici in zone di questo genere non si può investire, un'azienda privata non può investire, portare fibra ottica direttamente. Direi proprio di no, soprattutto perché ci sono all'interno di questa valle dei comuni molto piccoli, che gli operatori di telecomunicazioni definiscono molto chiaramente a fallimento di mercato. Poi ci sono anche dei comuni sulla bassa valle che sono un po' più appetibili, però nella sua complessità il progetto senza l'intervento pubblico non poteva stare in piedi. Voi pensate che l'infrastruttura che porterete da qui alla fine di settembre, perché dovrete realizzarla alla fine di settembre, possa essere interessante per i cittadini, quindi da un certo punto di vista anche un motivo per rimanere in valle, per addirittura cittadini che si potrebbero trasferire in valle perché hanno a disposizione connessioni ad internet molto performanti, o anche per le aziende? Ci sono le aziende, e soprattutto le aziende sono interessate, hanno capito quanto è importante internet? Direi proprio di sì. Devo dire che l'accoglienza al progetto è stata molto molto positiva, tant'è che diverse aziende hanno già sottoscritto dei contratti per connessioni in fibra ottica, e ci sono delle forti aspettative anche da parte dei cittadini, quindi siamo molto fiduciosi, anche perché dove abbiamo già implementato questo tipo di tecnologia, nel giro di pochi mesi abbiamo riempito gli armadi di strada e stiamo già facendo degli ulteriori ampliamenti. Quanto costa un collegamento di questo genere? Cioè, stiamo parlando di prezzi di mercato, di prezzi più bassi perché c'è l'intervento pubblico, di prezzi più alti perché siamo in una zona disagiata. Quanto costa? Allora, per la pubblica amministrazione, il servizio che noi diamo, e cioè alle circa 200 sedi che serviremo con questa tecnologia, avranno una connessione a titolo gratuito per 7 anni. Gli altri soggetti avranno delle connessioni a prezzi di mercato, a prezzi sicuramente competitivi, allineati o addirittura migliorativi rispetto a quello che propongono normalmente gli altri operatori di telecomunicazioni. Adesso cambiamo argomento. Lunedì sera partirà un nuovo cargo con rifornimenti e materiale scientifico per la Stazione Spaziale Internazionale. Il carico di 2 tonnellate sarà trasportato dalla capsula Dragon della SpaceX. È una delle tante missioni di rifornimento, ma è importante per l'Italia perché a bordo ci saranno gli strumenti per 3 esperimenti selezionati dall'Agenzia Spaziale Italiana per la missione Futura, che è portata avanti dalla nostra astronauta Samantha Cristoforetti. La strumentazione serve per 1 esperimento di biologia, 1 ricerca sull'osteoporosi e 1 macchina per studiare il comportamento nello spazio di liquidi ad alta pressione e ad alta temperatura. La macchina si chiama ISS Espresso ed è stata definita la macchina da caffè per lo spazio per gli astronauti. L'ha realizzata Argotech, che è una società di Torino, con il supporto della Lavazza. Ed ecco che cos'è, come funziona, ce l'ha spiegato David Avino, che è l'amministratore delegato di Argotech. Il nome richiama veramente molto il caffè, perché poi in realtà, alla fine, se vogliamo banalizzare l'esperimento, è una macchina, un dimostratore tecnologico, quindi una macchina del caffè. Poi vedremo che ci sono tantissime altre funzioni, quindi non farà solo il caffè espresso italiano come lo intendiamo noi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Parlando proprio di spazio e di stazione, il nome deriva proprio da ISS, quindi International Space Station. È un po' parafrasando il famoso espresso con l'acronimo ISS, è venuto fuori il nome ISS Espresso, molto vicino all'espresso che beviamo qui nei comuni bar sulla Terra. Perché abbiamo fatto questo dimostratore tecnologico e come mai viene utilizzato e verrà praticamente utilizzato sulla stazione spaziale? Innanzitutto, come si diceva prima, è un esperimento perché portare fluidi in temperatura, in microgravità, è totalmente diverso da quello che succede sulla Terra, per cui, se vogliamo, il comportamento dei liquidi è diverso. Abbiamo visto tante volte sulla stazione volare, se vogliamo, queste goccioline di acqua o farle volare, gli astronauti si divertono molto. Sembra molto banale, ma in realtà è un esperimento molto molto difficile, perché per creare un buon caffè anche in microgravità bisogna portare la temperatura dell'acqua a circa 90 gradi e la pressione a circa 8 bar, quindi una cosa davvero molto molto complicata, se vogliamo. Un primo utilizzo potrebbe essere proprio questo, cioè fornire gli astronauti di caffè, che è un aspetto importante, interessante, cercare di riportarli il più possibile, seppur nei limiti dello spazio, della Stazione Spaziale Internazionale, ad una vita normale dove il caffè si prende, è un alimento insomma comune, soprattutto per noi italiani. Ma immagino che l'esperimento, cioè questa macchina, poi le chiedo anche di descriverci questa macchina come è fatta, serva qualche cosa di più, è un esperimento scientifico vero e proprio, quindi qual è lo scopo e l'obiettivo finale? Diciamo che uno degli aspetti fondamentali iniziali da cui è partita proprio l'idea del progetto era anche un aspetto psicologico, perché vivere in microgravità a distanza per circa 6 mesi in spazi ristretti e confinati, anche bere, se vogliamo, un buon caffè espresso, significa anche rendere contenti, far contenti gli astronauti e migliorare anche le proprie performance. Siamo partiti da lì e a quel punto abbiamo cominciato a dire: cerchiamo di portare su un espresso, ma cerchiamo di farlo in modo che possa funzionare in microgravità. E da lì chiaramente sono nati tantissimi problemi e problematiche proprio per cercare di farla funzionare in microgravità. Il miglioramento di questa conoscenza ha portato, faccio un esempio proprio banale, a 3 nuovi brevetti che potranno essere utilizzati anche sulla Terra, non solo nel campo proprio delle macchine del caffè, ma anche nel miglioramento proprio delle conoscenze stesse della fluidodinamica. Noi come azienda lavoriamo molto sulla parte fluidodinamica stessa e cerchiamo per quanto possibile di riportare queste innovazioni che creiamo per lo spazio immediatamente sulla Terra. Da questo esperimento e da questa esperienza potranno nascere, già stiamo cercando, non solo delle applicazioni spaziali, ma soprattutto delle applicazioni terrestri che avranno delle implicazioni immediate sulla vita proprio quasi di tutti i giorni. Come è fatta questa macchina? È una macchina abbastanza grossa, è una macchina da circa 20 chilogrammi, qualcuno l'ha ribattezzato come un vecchio o un forno a microonde. È una macchina che prende l'acqua da quello che noi abbiamo chiamato il water dispenser della Stazione Spaziale Internazionale, non è nient'altro che un rubinetto spaziale. Da questo rubinetto spaziale noi prendiamo l'acqua, l'acqua viene messa in pressione attraverso un sistema che funziona in microgravità, viene riscaldata e a questo punto attraverso una capsula o un sistema di brewing, quindi di infusione, ci sarà una capsula all'interno e questa capsula è assolutamente uguale a quelle capsule che noi utilizziamo qui sulla Terra. Ci sarà l'infusione del caffè e il caffè a questo punto, al posto di uscire e quindi venire erogato all'interno di una tazzina, verrà praticamente erogato in un, se vogliamo, in un sacchetto, in modo che l'astronauta possa poi berlo da una cannuccia. Ancora noi oggi non possiamo dire che il caffè sarà buono o comunque sarà simile a quello della Terra, cioè dobbiamo aspettare il primo caffè che faranno, immagino, tra qualche giorno. Ma noi ce l'abbiamo messa tutta anche perché... No, immagino, immagino, però diciamo non possiamo ancora, perché la prova non è ancora stata fatta nello spazio, giusto? Non è mai stata fatta una prova del genere nello spazio, è la prima volta che viene fatta. Quello che noi abbiamo cercato di fare, assieme anche ai nostri partner, la Vaffa, abbiamo cercato praticamente di mantenere due parametri fondamentali per un buon caffè, come si raccontava prima, la temperatura di uscita del caffè e soprattutto la pressione. Siamo riusciti a mantenere questi due parametri, siamo riusciti ad avere le stesse capsule che vengono utilizzate sulla Terra, per cui si spera davvero, dopo tutti quanti i test che abbiamo fatto sulla Terra, si spera davvero che il gusto del caffè sia lo stesso anche in microgravità. Lo speriamo, perché questo significherebbe anche, se vogliamo, migliorare l'aspetto psicologico dell'astronauta. In realtà questa non è solo una macchina del caffè, è, noi l'abbiamo battezzato un sistema del food, un sistema del cibo, perché non solo potremmo fare un caffè, un buon caffè espresso, come lo intendiamo noi italiani, ma nello stesso momento potremo reidratare il cibo che c'è sulla Stazione Spaziale Internazionale. Cosa significa? Dopo un lavaggio della macchina, quindi un flush, come viene chiamato in gergo tecnico, si possono mettere all'interno, al posto di mettere delle capsule di caffè, si possono mettere delle capsule di brodo diverso, in modo da poter reidratare il cibo sulla stazione. E questa, se vogliamo, è un altro tocco che è piaciuto molto ai nostri colleghi e partner della NASA, perché significa anche aumentare un aspetto e andare a curare un aspetto nutrizionale del cibo presente sulla stazione stessa. Esatto, poi se vogliamo, come deve essere, pensare al futuro e tutto quello che si sta facendo nello spazio, comunque buona parte è fatta per prepararci per missioni anche di maggiore durata. È chiaro che questo aspetto è importante, perché un conto è mangiare delle barrette, comunque insomma cibo non sicuramente gradevole ma non buono come quello che mangiamo sulla Terra, è un altro conto è mangiare insomma cose sicuramente più gradevoli o comunque più simili. Le faccio una domanda che riguarda il vostro business come azienda italiana, riprendendo anche quello che ci aveva detto poco fa, cioè delle ricadute sulla Terra, a parte il gioco di parole, ma tecnologiche che poi possiamo utilizzare nella vita di tutti i giorni. Quanto è importante quello che si sperimenta nello spazio per le cose che noi utilizziamo tutti i giorni, o anche in strumentazioni scientifiche, tecnologiche molto avanzate che comunque vengono utilizzate sulla Terra? Perché molto spesso purtroppo si crede e si pensa che queste missioni, che sono comunque costose, abbiano una ricaduta poi poco importante sulla vita di tutti i giorni. Ma invece è assolutamente fondamentale questo tipo di attività e di ricerca scientifica. Sulla Terra alcune volte noi pensiamo di conoscere tanto, di conoscere magari tutta la fisica, tutte le leggi fisiche, ma poi in realtà quando ci stacchiamo un attimino dalla Terra riusciamo a capire che c'è ancora tanto da conoscere, da sapere. Sulla Terra abbiamo un problema fondamentale, abbiamo questa forza di gravità che ci nasconde tanti fenomeni piccoli fisici. Cosa succede? Che appena noi ci distacchiamo dalla Terra, andiamo in questa Stazione Spaziale Internazionale, in questo laboratorio, in microgravità, dove la forza di gravità viene quasi annullata, cosa significa? Che in questo caso possiamo andare ad analizzare quelli che sono i fenomeni anche piccoli fisici che sulla Terra vengono nascosti. E questo significa assolutamente migliorare la conoscenza dei materiali stessi, la conoscenza fisica, e cercare di poter portare e migliorare sempre di più questa esperienza che viene fatta in microgravità per avere delle applicazioni immediate sulla Terra. Questo è assolutamente fondamentale. E si parla tanto di ricerca scientifica fatta proprio nello spazio. Noi dobbiamo immaginare una cosa, che tantissime cose che sono oggi di uso comune, dalle telecomunicazioni, da tantissimi materiali, il Gore-Tex che viene utilizzato, ma anche ad esempio oggi ci sediamo ai nostri ristoranti, nei ristoranti in giro per il mondo, andiamo ai supermercati e riusciamo a prendere del cibo che è stato controllato, ma poche persone conoscono che il piano di autocontrollo, che si chiama HCC, questo è un esempio proprio banale, è stato inventato dalla NASA negli anni 70, quando si cominciavano praticamente le missioni Apollo, proprio per essere sicuri che gli astronauti potessero all'epoca mangiare qualcosa in microgravità e non sentirsi male. Quindi è assolutamente fondamentale la ricerca che viene fatta nello spazio. Per quanto riguarda i costi, ci sono delle analisi che sono state fatte da istituti specializzati, non solo americani, europei, ma di tutto quanto il mondo. Riporto un esempio, si dice che nelle missioni Apollo ogni dollaro all'epoca che è stato speso per queste missioni spaziali sono ritornati circa 4 dollari all'industria terrestre. Quindi questo è un parametro veramente fondamentale, e questo è uno dei motivi per cui bisogna continuare a spingere verso la ricerca e verso l'innovazione, ma non solo nel campo spaziale, anche nel campo proprio terrestre. Senta, voi siete un'azienda italiana, io ho detto poco fa, parlando del lancio che avverrà la prossima settimana, lunedì, verso la Stazione Spaziale Internazionale, che il materiale verrà portato grazie ad un razzo, ma anche ad una capsula di un'azienda privata, SpaceX. C'è, soprattutto negli Stati Uniti, un business che c'è sempre stato, ma crescente negli ultimi anni, di privati che naturalmente vivono prevalentemente grazie al supporto pubblico, grazie ai finanziamenti della NASA, ma poi in prospettiva probabilmente anche finanziati da altri privati. Nel mondo dei satelliti questo è sicuramente un mercato molto più maturo. Ecco, vista dall'Italia e vista da una azienda italiana, come stanno le cose? Ma le cose, in realtà l'America, come sempre, è stata un po', hanno cominciato loro, sono sempre i precursori, hanno cominciato loro con ad esempio SpaceX, quindi con questo vettore Dragon, ma ce ne sono anche altre aziende americane. Hanno cominciato loro, si sono trovati, la NASA in questo caso si sono trovati davvero molto bene con queste aziende private, e anche l'Europa è stata lì a guardare un attimino quello che succedeva sul mercato americano. E adesso si parla molto anche dal punto di vista europeo e magari anche italiano di cominciare ad aprire con lo stesso sistema che ha utilizzato la NASA ad altre aziende europee private. Quindi ci sta dicendo che c'è un business interessante? Ci può essere un business interessante, se vogliamo, in Europa stiamo appena adesso cominciando da quel punto di vista. La vostra è una piccola azienda ed è anche un'azienda giovane, ma ci dice qualche cosa in più? Noi siamo un'azienda giovane, non solo per una questione di costituzione, ma soprattutto giovane per le persone che lavorano all'interno, perché gli ingegneri che lavorano con noi, il personale in generale che lavora con noi, ha un'età media di circa 29 anni, quindi stiamo cercando di adottare una politica molto particolare, che è quella di attirare questi giovani, più che magari farli andare all'estero, cercare di attirare anche giovani dall'estero stesso, e soprattutto di tra virgolette portare a far volare i loro sogni, perché queste persone vengono all'interno della nostra azienda cercando di portare innovazione, portare idee, e noi per quanto possibile cerchiamo di realizzare e far volare i loro sogni e le loro idee. Siamo piccoli perché siamo comunque un'azienda di circa una trentina di persone. Questa intervista ve l'abbiamo offerta in versione originale, integrale, tutto intera, solo nella versione podcast che state ascoltando. Allora, ricordiamo che quello di lunedì è il settimo viaggio della capsula Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale. Fra circa 5 settimane, poco più di un mese, Dragon tornerà sulla Terra con un carico di materiali dell'equipaggio, hardware e anche alcuni esperimenti scientifici che tornano sulla Terra. Allora, ho citato più volte la Dragon, che partirà con un razzo Falcon 9 di SpaceX, e vi segnalo che su YouTube c'è una versione 4K di un lancio di questo razzo, quindi sicuramente molto interessante, soprattutto se avete un televisore 4K, se no insomma, non è che vedete granché meglio. Dunque, adesso ci fermiamo, tra poco ci sarà Gianfranco Giardina con noi per parlare di grande e piccolo schermo, ma con una prospettiva, con la prospettiva dei nostri giorni, non quella del classico grande schermo e piccolo schermo. A tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Paglierini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Adesso è con noi Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati agli ascoltatori. Era da un po' di tempo, complici anche le vacanze pasquali, che non entravi in uno dei nostri studi, gli ascoltatori ti reclamavano, allora ti abbiamo costretto a venire proprio in studio. Dunque, partiamo dagli smartphone, poi passiamo al mondo della TV, dei televisori, partiamo dal quello che molti chiamano second screen e arriviamo al first screen, anche se giustamente tu dici, attenzione, che per molti consumatori, comunque per alcuni consumatori, le cose sono inverse, cioè sì, il primo schermo è lo smartphone e il secondo è la TV. Il secondo occasionalmente diventa il TV. Sì. Anzi, io direi che potreste crearvi una vita con il first screen, cioè lo smartphone, e basta, senza second screen. Anzi, magari aggiungiamo anche un tablet, ecco, una bella radio da tavolo da tenere in casa. Ci sono anche dei prodotti belli da vedere. Poi lo smartphone fa anche andare i podcast, quindi esatto, perfetto, no? Senti, in questo weekend, quindi dal 10, una data che da tempo molti attendevano, perché Samsung entra nel mercato con un nuovo prodotto, un prodotto che da un certo punto di vista taglia col passato di Samsung. Parliamo dei nuovi S6, perché non c'è solo un modello, c'è anche un modello particolare con questo schermo smussato verso i lati. C'è chi dice che questo telefono sia molto bello, ma utile solo per farlo vedere agli amici la prima volta, poi basta, ma questo poi lo dirà anche il mercato. Allora, due parole su questi nuovi telefoni, e soprattutto perché si dice, come abbiamo commentato anche durante la presentazione, sono smartphone che tagliano con il passato di Samsung. Samsung alla ricerca anche di una nuova strada per riprendere un po' quota. Ma perché la cosa che è più in continuità di questi telefoni è il nome. Si chiamano Galaxy S, dopo il 4 e il 5 adesso è arrivato il 6, quindi il nome è in continuità col passato. L'estetica, i materiali, la filosofia del prodotto non lo è. Perché? Perché innanzitutto si è abbandonata la plastica. Samsung è stata criticata molto per avere proprio anche sui suoi top di gamma, di fatto lo chassis del telefono, o comunque la custodia posteriore, cioè lo sportello posteriore in plastica, e che al di là della c'è plastica e plastica, anche lì, certo, cioè, ci sono plastiche anche molto belle, ma la sensazione non era proprio quella di un prodotto durevole. Certo, soprattutto su un top di gamma sul quale uno si aspetta materiali pregiati, uno spende 600-700 euro, dice beh. Samsung adesso con l'S6 si adegua a quello che è diventato ormai un trend di mercato abbastanza chiaro sui top di gamma, utilizzando materiali più nobili, considerati più nobili, come il vetro e il metallo. Quindi sicuramente un telefono che appare più solido, più concreto, più bello, e sull'estetica di questo telefono nessuno veramente a questo giro ha avuto più niente da ridire, contrariamente alle versioni passate. Si paga un po' questo scotto, un po' coi prezzi, che sono diciamo allineati ai prezzi di iPhone, quindi ai massimi del mercato, quantomeno i prezzi di listino al lancio, poi vedremo se ci sarà una dinamica di prezzi, e si paga anche con alcune peculiarità, per esempio il fatto che la batteria non sia più removibile. La batteria removibile e quindi sostituibile è stata un cavallo di battaglia dei sostenitori dei Galaxy nei confronti per esempio di certa concorrenza come iPhone. Invece ovviamente per avere questa estetica più compatta, più solida, lo sportello posteriore non è più removibile e di conseguenza la batteria neanche. E qui capiamo quanto il design poi incida sull'usabilità o su alcune caratteristiche che facevano di una marca la preferita di alcune categorie di consumatori. Assolutamente sì. E l'altro punto fondamentale è che, e questo per proprio gli appassionati di Android, dei fedelissimi delle linee Galaxy, la memoria non è più espandibile con una microSD card, ma è fissa, quindi va acquistata contestualmente al telefono, cioè ci sono diverse versioni del telefono, 16, 32, 64 gigabyte, e quindi a quel punto l'acquirente sceglie il telefono e quella memoria sarà per sempre quella del telefono, che poi è una cosa a cui Apple è abituato, diciamo, da sempre. Hanno fatto l'iPhone, hanno preso come punto di riferimento l'iPhone, così come del resto iPhone e Apple aveva preso come punto di riferimento altri prodotti per fare l'iPhone 6, che ha avuto un grande successo. Sì, ma io non credo che ci sia, voglio dire, le idee quando sono liquide, non sono dei brevetti, le idee giustamente passano di azienda in azienda e possono essere più o meno imitate, o comunque si può decidere che quella è una tendenza di mercato abbastanza assestata oramai. Devo dire la verità, questi limiti di iPhone, cioè la batteria non removibile, la memoria non espandibile, sono sempre stati considerati limiti, ma il mercato ha dimostrato, col successo di iPhone, di saper passare sopra questi aspetti per prendere in buon conto altri aspetti, come per esempio i materiali. E questa è stata un po' la scelta di Samsung, che è una scelta di rottura. Perché? Perché in certo qual senso sembra inseguire un po' un nuovo target. Il classico utente super appassionato, diciamo, fatemi dire fanboy dei Galaxy, ha criticato questa scelta, ovviamente, e quindi non sappiamo se magari si orienterà su altri telefoni che permettono una maggiore configurabilità, una maggiore flessibilità nella batteria, e quindi la sostituzione della batteria, oppure se resterà comunque fedele a Galaxy. Sì. Però evidentemente c'è un pubblico molto più ampio, questo deve aver valutato Samsung, che non è così Penso che questo legato, esatto, dimostri anche un po' il cambiamento, e anche per questo motivo che parliamo proprio di questo aspetto, al di là, insomma, di tanti tecnicismi, di cose nuove che poi non sono nemmeno tantissime, diciamo, ed effettivamente Samsung ha deciso di non stupire il pubblico con particolari tecnici incrementali che fanno un po' di più con la fotocamera, che fa questo e quest'altro, ma di puntare su altro, come tu spiegavi. Ma probabilmente è un segno del cambiamento del mercato. Ormai gli smartphone hanno raggiunto una maturità tale per cui non si sceglie più il prodotto per il processore addirittura, ma nemmeno viene più citato da nessuno. Quindi è sicuramente un cambiamento molto interessante. Poi vedremo anche il mercato come reagirà, perché chiaramente un consumatore avrà di fronte, a proposito di top di gamma, da una parte iPhone, da una parte il Galaxy. Possiamo considerare questi due prodotti rappresentativi dei due mondi top di gamma, e la scelta non sarà facile perché i prezzi grosso modo sono allineati, giusto? I prezzi sono allineati, le prestazioni, mi vengono da dire, anche sostanzialmente sì, anche sì. La caratteristica dell'S6 Edge, quindi quello con il display smussato, è una caratteristica unica, per quanto come osservavi giustamente tu, probabilmente più un fatto di moda che sostanziale, ma sappiamo quanto la moda o quanto piccoli dettagli siano importantissimi nel mercato degli smartphone. Non è un mercato completamente razionale, anzi possiamo dire che probabilmente non lo è affatto, certo. E quindi una caratteristica di quel tipo può essere una killer application, tant'è vero che le prime sensazioni, ma si parla di sensazioni perché è in vendita questo weekend e quindi dovremo vedere il registratore di cassa che cosa dice, ma le prime sensazioni sono che l'S6 Edge possa andare velocemente in stock out, cioè che Samsung anche perché possa, ce ne sono pochi, sì, possa non riuscire, visto che anche la produzione è un po' più complicata per il vetro curvato eccetera eccetera, possa non riuscire a stare dietro ai ritmi di produzione richiesti dal mercato. Sì. Comunque questo è sicuramente un prodotto che costa molto, e mentre per iPhone non c'è, diciamo, alternativa, perché l'iPhone è di una categoria diversa, in questa categoria, essendo un Android, chiaramente le alternative non mancano, quindi il mercato ci dirà cose interessanti sull'andamento. Sì, questo è anche interessante da vedere, anche perché questo diventa poi ancora il vero grande limite di Samsung rispetto, esatto, a certa concorrenza. Cioè Samsung comunque propone, pur nella personalizzazione dei materiali, anche della shell grafica per certi versi, delle applicazioni, ma propone un telefono con un sistema operativo Android che è ritrovabile su tanti altri terminali di altri produttori, e quindi è un elemento di omologazione, di non differenziazione che può pesare a lungo termine sia sulla scelta di un terminale Samsung piuttosto che di un'altra marca, quindi la sostituibilità è più alta, sia per quanto riguarda tutti i ritorni da ecosistema che Apple ha, che Google di fatto ha grazie anche e soprattutto a Samsung, che in parte Microsoft ha e spera di avere sempre più sulla base del suo ecosistema, magari con il lancio di Windows 10 cambierà anche qualcosa in questo senso, e che Samsung non ha, perché Samsung non ha un proprio ecosistema, non ha un proprio sistema operativo, malgrado qualche tentativo in questo senso sia stato fatto, però sempre con troppo poco coraggio. Qui bisognerà forse aspettare che magari i conti di Samsung, che ancora sono ovviamente ampiamente positivi, ma in flessione rispetto al passato, peggiorino ulteriormente per dare a Samsung il coraggio magari di affrancarsi spingere, da Google, sì, di affrancarsi sì, un po' questo, più da Google. Infatti ci ha provato con Bada, poi ci sta provando, ma soprattutto in alcuni paesi un po' particolari come l'India, con Tizen, che questo è un sistema operativo su cui spinge molto Samsung, però sostanzialmente insomma, anche in Europa e negli altri paesi si va su Android. Questo è un aspetto molto interessante perché ci dice alcune cose, alcune dinamiche del mercato, perché Samsung rappresenta proprio l'esempio di quello che sta succedendo nel mercato degli smartphone, dove vincono i produttori di software, e i produttori che puntano prevalentemente sull'hardware e si affidano al software ad altri brand, come il caso di Samsung per Android, con Android soffrono un po' di più. Effettivamente, come tu dicevi, i conti, anche le curve di vendita sono abbastanza evidenti che Samsung negli ultimi tempi ha un po' rallentato, pur rimanendo ancora il numero uno, ma se continua così i cinesi arriveranno presto superare. Per quanto il tasso di sostituzione degli smartphone sia comunque molto alto, resta comunque molto alto, ma è un mercato che sta andando soprattutto nei paesi occidentali a saturazione. Quindi tu dici, ma non solo tu, cioè il mercato ci dice che software vince, hardware perde. Beh, in questa fase storica assolutamente sì, tanto più che abbiamo visto negli anni, se vediamo, traguardiamo un po' questi fatti in un orizzonte un po' più lungo, abbiamo visto negli anni la leadership delle aziende hardware continuare a passare di mano in mano, e non parlo solo di telefonia, ma anche la Nokia di una volta e sembrava padrona del mondo e poi ha dovuto cedere lo scettro, e così via. Samsung, forse Samsung un domani lo dovrà cedere a qualcun altro, ma nei TV, nell'audio, in tutta l'elettronica di consumo, il pallino si è spostato prima dal mondo occidentale, quindi Europa e Stati Uniti, in Giappone. Dal Giappone poi si è spostato a Taiwan e in Corea, dalla Corea adesso si sta spostando, o vediamo nascere delle cose molto interessanti in Cina. Non dimentichiamo che per esempio sui mercati orientali c'è Xiaomi, che è un nome che adesso comincia a ricorrere sempre più, che è un'azienda che sta mettendo in serie difficoltà anche Samsung, con un modello di business completamente nuovo, con una vendita diretta ed è un'azienda che ha 5 anni di vita. Pazzesco. Cioè ha festeggiato poche settimane fa il loro quinto anniversario dalla fondazione, quindi vedete come stanno cambiando velocissimamente queste cose, e il mondo dell'hardware ci ha insegnato che il pallino passa di mano in mano. È difficile rimanere leader anche geograficamente, perché l'asset della produzione chiaramente è legato a delle masse critiche, all'efficienza, al costo, ai salari, al costo del lavoro, eccetera, eccetera. E quindi questo si sposta di territorio in territorio. C'è chi dice che ormai resterà in Cina il pallino per molti anni, perché il modello cinese è replicabile all'infinito su tanti territori, e quindi con tutti i territori che hanno e la popolazione che hanno possono replicarlo all'infinito. Magari dura un po' più che magari il Giappone dura un po' in Corea, di più, però poi arriverà magari l'India, chi lo sa. Sì. Il mondo del software, dei sistemi operativi invece è rimasto praticamente stabilmente negli Stati Uniti. Non è mai uscito dagli Stati Uniti, e quando gli Stati Uniti negli anni scorsi cedevano i propri asset produttivi o si facevano produrre da terzi. Apple è prodotta in Cina, parliamoci chiaro, da dei terzisti, no? Però non ha mai perso il pallino del sistema operativo. E in realtà i grossi ritorni di Apple, al di là dei margini che ha sull'hardware comunque, arrivano dall'ecosistema, dagli acquisti che vengono fatti, dalle app, eccetera, eccetera. E tra l'altro sono dei ritorni che continuano anche dopo la vendita del telefono, mentre oggi i ritorni di Samsung terminano dopo la vendita del terminale. E quindi sono due modelli di business molto diversi. Oggettivamente, se dobbiamo vedere chi va bene, chi cresce, chi ha grandi prospettive, vediamo, guarda caso, Apple, ma forse più che per i suoi telefoni, che sono la cosa più esteriore che abbiamo, che molti hanno in tasca e quindi che noi vediamo e tocchiamo, ma forse probabilmente più per il suo sistema operativo e per il suo ecosistema trasversale, smartphone, tablet, PC, che ha messo in atto, che è riuscita a far affermare. Google, allo stesso modo, per il mondo del sistema operativo che ha su smartphone e su tablet, un po' meno nell'ambito PC, perché Chrome OS ancora non esiste quasi. E Windows Phone. Cito anche Microsoft, sì, che certo, da grande ferita, perché ha perso molte posizioni negli ultimi anni, è stata molto aggredita, ha perso il treno del mobile almeno alla prima partenza, ma sta cercando un riaggancio con un approccio legato al sistema operativo. Certo, controlla anche l'hardware, ma i telefoni Lumia, diciamo che adesso sono Microsoft, sono soltanto un corollario per Microsoft, per poter imporre il proprio sistema operativo. È certo un business di per sé stesso. Poi non è detto che vedremo non dei Lumia, ma sicuramente degli smartphone di altri produttori, che ne so, magari anche Samsung stessa, con Windows Phone nei prossimi anni, che ne so, forse già dall'autunno, quando arriverà Windows nuovo, Windows 10, che sarà comune su tutte le piattaforme. Dal piccolo schermo, in questo caso veramente, certo, passiamo a quello che una volta veniva definito piccolo schermo, il mondo della TV, dei televisori. Partiamo da un accordo che vedremo a breve in Italia, un accordo tra TIM e Sky. Dico TIM perché sapete che il nuovo brand di Telecom Italia per il mondo consumer è TIM, quindi Telecom di fatto scompare come brand per il mondo dei consumatori, rimane per il mondo delle aziende, quindi TIM e Sky. Da molto se ne parla, che cosa sta succedendo e che cosa succederà? Ma succederà che l'offerta di Sky sarà fruibile anche via internet, grazie a un accordo con TIM, appunto, e quindi senza parabola. Ma si tratterà dell'offerta Sky tradizionale, quindi quella che normalmente vediamo via satellite. Altri tentativi erano già stati fatti in passato, anche con Fastweb, però di certo la capillarità che, mi viene da dire, Telecom ancora, anche se è TIM, ma che Telecom ha sul territorio, è tale per cui da poter preludere a una grande diffusione, credo, che Sky appunto pensi l'acquisizione di nuovi clienti tramite questo canale, clienti che magari non hanno voglia o non hanno possibilità di avere una parabola, ma sono raggiunti dalla fibra, perché il prerequisito fondamentale è che ci sia almeno la cosiddetta fiber to the cabinet, quindi la fibra fino all'armadio di zona. Sì, la famosa fibra fino ad un certo punto, come la definisco io, in tutti i sensi, però questa è la capacità della rete richiesta. Quando parte questa offerta integrata tra i due operatori? L'offerta sarà presentata il prossimo 16 aprile. Ok. Quindi attendiamo nei prossimi giorni. Dei dettagli si sanno già, devono soltanto essere, diciamo, confermati, ma noi siamo ragionevolmente sicuri di quello che stiamo dicendo. Tanto per dare degli ordini di grandezza, innanzitutto servirà avere almeno una banda di 20 megabit, senza la quale ovviamente non è possibile fruire di un servizio di netcasting video. Non si sa ancora se i contenuti saranno soltanto in standard definition, ci sarà un'offerta anche in alta definizione, cosa che sembra un po' difficile con questi bitrate. Questo è un peccato. Questo è un peccato, però pronto a essere smentito, spero anzi che ci sia magari un'offerta in HD per chi magari dispone anche di una banda superiore ai 20 megabit nella sua zona. Sì, i tagli di queste offerte con la fibra fino al cabinet partono da 30, ma tutti gli operatori dicono che da 30 si passerà molto velocemente, già ci sono delle offerte a 50 megabit e in alcune zone, per alcuni utenti particolarmente fortunati perché sono vicini al cabinet, si possa arrivare a 100 megabit. Vabbè, con 100 si possono fare un sacco di cose, ammesso che siano garantiti e sicuri e che ci siano davvero. Comunque, certo. Vedremo insomma, i dettagli. I costi saranno 14 euro al mese inizialmente per il pacchetto Sky TV, quindi il pacchetto base. Di Sky, e che diventeranno dopo un anno 19,90. Quindi cioè, come il satellite. Un primo anno scontato, e dopodiché si passerà a un costo più alto, e poi ci sono i prezzi per i pacchetti aggiuntivi che sono scontati anche qui il primo anno e poi intorno ai 10 euro ciascuno. Vabbè, e poi si allineeranno. Sì. La cosa interessante, perché qui si tratta proprio di un legame tra il broadcaster Sky e il carrier Telecom, e la cosa interessante è che per esempio il traffico LTE dei device mobili TIM su Sky Go per gli abbonati chiaramente non verrà conteggiato nel piano. Quindi questo è molto interessante, perché Sky Go ovviamente che permette l'accesso sia in diretta che in differita, diciamo on demand, dei contenuti video in mobilità è bellissimo, ma consuma una quantità di dati importante come tutti gli stream video, e in questo caso per gli abbonati a questo servizio l'aggiunta Sky Go non incide sul monte traffico mensile, a patto di avere chiaramente anche un abbonamento dati in mobilità con TIM. Quindi ecco un'offerta che qui si vede forse anche perché adesso non c'è più il marchio Consumer Telecom Italia, ma c'è tutto TIM, perché le due offerte un po' si tengono, cioè un'offerta residenziale, un'offerta in mobilità che diventa un po' naturalmente unica. Capite benissimo che qui, ma non voglio entrare in questo ginepraio, si tocca il famoso tema della neutralità della rete, perché se io sono abbonato a un servizio ho una certa performance della rete, quindi non mi viene toccato il monte traffico. Se uso un altro servizio al quale non sono abbonato, chiaramente quello mi erode il traffico e diciamo che la competizione non è equa, lo mettiamo tra virgolette. Comunque il tema della neutralità, diciamo che finché si ferma alle questioni legate alla tariffazione è già ancora diciamo buono, accettabile. Il problema è che non diventi un fatto di prestazioni, qualità, cui magari chi è abbonato in questo modo riesce a vedere bene Sky Go, ipotizzo, perché gli viene data una banda prioritaria, e chi invece non è cliente Sky via TIM magari non accadrà di sicuramente, ma è un caso di non neutralità della rete, magari viene penalizzato nelle prestazioni della sua rete. Comunque diciamo che in Europa per il momento non ci sono regole in questo senso, anche perché l'Europa dice, almeno fino ad oggi, poi c'è un dibattito anche al Parlamento europeo, dice c'è una concorrenza sul mercato tale per cui non ci possiamo preoccupare. Cioè nel senso, se avvenisse quello che abbiamo disegnato, uno potrebbe cambiare operatore. In effetti la situazione da questo punto di vista è migliore rispetto agli Stati Uniti, dove c'è molta meno competizione, soprattutto sul campo della telefonia, quindi di internet fisso. Stiamo descrivendo un fenomeno tale per cui un operatore che è specializzato nella TV via satellite comincia ad è successo già da tempo, insomma, che Sky offra servizi anche su internet, ma questa è una conferma ulteriore. Mentre Mediaset a cosa sta pensando? Qua disegniamo uno scenario che... Sì, abbiamo raccolto qualche rumor nei salotti giusti, diciamo così, in cui ma le notizie arrivano un po' spezzettate, ma insomma si tengono assieme, si confermano l'un con l'altro, che Mediaset stia studiando, o qualcosa di più, uno sbarco su satellite con un'offerta pay TV. Quindi Mediaset Premium, o quel che diventerà Mediaset Premium, anche in caso di spin-off probabile, dovrebbe avere un'offerta anche via satellite con un decoder proprio, quindi con un modello molto simile al modello tradizionale di Sky. Questo perché? Beh, soprattutto in forza di una questione, di un asset fondamentale, è la Champions League. Dalla prossima stagione Mediaset avrà la titolarità dei diritti Champions League in esclusiva. Allora i casi sono due, o come già è successo in passato a parti invertite, diciamo, ma si troverà un accordo con Sky per cedere una parte dei diritti per la trasmissione via satellite, oppure Mediaset avrà in pancia questi diritti e non li utilizzerà di fatto, quelli della trasmissione via satellite. E, probabilmente è una scelta complicata, difficile, bisognerà anche capire fino a che punto, e questo, su questo non mi esprimo assolutamente perché non ho gli strumenti per capirlo, ma fino a che punto una scelta di questo tipo sarà compatibile con la regolazione del mercato e quindi col fatto che Mediaset Premium giochi la partita pay sia sul digitale terrestre che sul satellite. Sempre. Sappiamo che Sky ha ormai due canali sul digitale terrestre a livello nazionale, ma sono canali a carattere gratuito, non a pagamento. Insomma, vedete come tutto si sta un po' confondendo e complicando. Sì, cioè Sky arriva sul digitale terrestre e va via rete, Mediaset approccia probabilmente il satellite. Si sono rotti degli equilibri, su questo non c'è dubbio. Allora, la domanda a questo punto è, perché a noi ci interessa la tecnologia e gli aspetti tecnologici di scenario, al di là della Champions o non Champions, cosa succede alla TV nei prossimi anni? Va tutta via internet, come alcuni dicono, il satellite ha una chance, perché se io fossi un operatore satellitare nel medio-lungo periodo mi preoccuperei un po', se è vero che va tutto via internet. Non andrà tutto via internet, perché non c'è il mix sufficiente, anche ipotizzando di far crescere le reti e la distribuzione delle reti, non soltanto il backbone che serve per trasferire tutti questi dati, ma anche la capillarità, il fatto che la fibra arrivi poi da tutti. Abbiamo visto che la fibra è indispensabile e quindi questo non accadrà velocissimamente, e anche se dovesse accadere la rete non è uno strumento adeguato al broadcast. Cioè quando c'è la partita in diretta, se tutti, la partita di cartello, il derby o qualsiasi altra cosa, se tutti volessero vederla via rete, la rete andrebbe facilmente oggi. Però domani non so io... ma domani ci sarà anche comunque nuove modalità di utilizzazione della rete stessa, per cui le reti cresceranno, ma crescerà anche la fruizione della rete stessa. Quindi io credo che fare 100.000 flussi per permettere a 100.000 utenti, che sono niente, di vedere una partita di calcio, o farne solo uno in broadcast, comunque da buon ingegnere mi viene da dire che la modalità più efficiente di distribuzione è il broadcast, quindi è non c'è dubbio, l'antenna, però... o meglio ancora il satellite. Quindi io non sarei preoccupato nell'essere un operatore via satellite, perché il satellite è l'unico che potrà veramente garantire la qualità, banda sufficiente HD, qualità e distribuzione per tutto quello che è il mondo live. Il completamento di un'offerta live deve diventare evidentemente on demand. Quello, il modello televisivo che deve cambiare, che viene cambiato ovviamente da questa modalità di fruizione, è che gli eventi in differita, ma anche mi viene da dire la fiction, i serial TV eccetera eccetera, incominciano a non avere più senso in broadcast. Ecco, questo sì. Allora l'attualità deve andare evidentemente in broadcast. In diretta via etere, diciamo così, via satellite o meglio, via terrestre. può andare anche via rete, ma meglio via etere, mentre tutto quello che è la fiction, la differita eccetera eccetera avrà un canale di fruizione prioritario sull'online. Perché? Perché sarà on demand, lancio io lo spettacolo quando voglio. Esatto. Allora poi vedremo cosa succederà. Sicuramente una dinamica molto forte è quella che è richiesta dagli utenti sull'on demand, e vedo che c'è una spinta molto forte e molti consumatori guardano via internet anche cose che avrebbe più senso vedere in broadcast, come abbiamo detto. Però se uno va a vedere il consumatore, i dati, mi viene da dire, è molto poco razionale. E fa quel che se gli noi pare. Pensiamo offrire... che un sacco di gente, anche in questo momento, magari sta ascoltando la musica su YouTube, Allora questo quindi male anche come qualità, consumando molto più banda perché scarica anche il video. Ecco, e questo è il segno dell'irrazionalità e mi viene da dire anche un po' dell'impreparazione del pubblico. Quindi ascoltate 2024 più spesso, che fa bene alla esatto. salute. Ultima cosa, ma importante in questo scenario, ci sono alcuni operatori che stanno tentando di trovare una strada ibrida, la chiamiamo, tra il mondo della rete internet e il mondo della TV tradizionale broadcast. Questo, non so se chiamarlo standard o comunque questo tentativo, si chiama Hybrid Broadcast Broadband TV, quindi che mette insieme sia il broadband, la banda larga, con il broadcast, quindi la trasmissione via etere sia terrestre che satellitare. Cos'è e cosa sta succedendo? È come se nell'aeroporto della TV si fosse sentito l'annuncio: cari broadcaster, ultima chiamata, last call, no? per il volo della TV del futuro che sta partendo. Sì. I broadcaster non hanno ancora premuto l'acceleratore in maniera adeguata su un'offerta non lineare, quindi via rete. Non l'hanno fatto perché hanno avuto in larga parte, non tutti, però un atteggiamento conservativo e di difesa dei loro asset piuttosto che di apertura verso un mondo nuovo. Capita sempre ai leader, a chi domina il mercato, magari di incorrere in questo errore. Che cos'è HBBTV, così si chiama questo standard? È un middleware, è uno standard proprio che permette ai TV che ne sono compatibili o ai decoder che ne sono compatibili. Che saranno o sono già? HBBTV esiste già nella sua versione 1 ma non è utilizzato in Italia. Okay. Quindi nella versione 2 che verrà invece utilizzata in Italia, e i broadcaster hanno già chiarito questo aspetto, ma è una cosa che arriverà 2016-2017 tanto per intenderci, permette di creare delle applicazioni interattive che possano miscelare in maniera intelligente contenuti broadcast con contenuti non lineari, on demand, provenienti da internet, però tutto col TV, tutto col telecomando del TV, tutto sul canale del broadcaster. Una cosa che già in parte facciamo oggi, per chi pensa a Rai Replay piuttosto che servizi di questo tipo, lo facciamo via MHP. MHP è uno standard che all'inizio sembrava dovesse essere adottato da 1000 paesi al mondo e poi di fatto è rimasto praticamente in Europa uno standard italiano. MHP, le applicazioni MHP che i broadcaster possono realizzare e caricare sui loro canali hanno un po' dimostrato insomma qualche limite, ma è normale, qualche limite legato agli anni, ma il maggior limite è che in pochi sanno che tutti i produttori di TV che vogliono vendere TV in Italia devono creare un modello apposito per l'Italia con questa compatibilità MHP che non serve in quasi nessun'altra parte del mondo. Che quindi costa anche un po' di più. E per forza, alla fine i produttori di TV, dovendo produrre un TV specifico per l'Italia, fa sì che questo costi un po' di più. E c'è anche un altro problema che anche mi viene da dire, per certi versi la libera circolazione delle merci in Europa, che dovrebbe creare efficienza e anche in qualche modo abbattere i prezzi, cose, sì. Non può esistere per i TV, perché alla fine ci vuole il TV modello italiano, se no l'MHP non è a bordo. E in questo caso invece HBBTV è uno standard già adottato in altri paesi europei, HBBTV 2, che è quello nuovo, che è un po' più aperto ancora alla rete, dovrebbe essere adottato in tutta Europa. C'è un proprio un movimento specifico per far sì che venga adottato in tutta Europa. Questo che cosa farà sì? Farà sì che i TV saranno comunque uguali, identici per ogni paese d'Europa, creando così un vero mercato europeo. Unico. Ma scusa, tutto questo non si può fare con le piattaforme Smart TV? Ma ognuno la farebbe col proprio standard e quindi non ci sarebbe più uno standard unico. Il problema è che quello che si è visto come grande limite delle Smart TV oggi, che ogni produttore ha una sua piattaforma. Sì, e il proprio sistema operativo. Il broadcaster che volesse offrire un servizio di TV via internet utilizzando le piattaforme Smart TV deve sviluppare, già lo fa in larga parte, chi lo vuole fare, un'app per ogni sistema operativo, quindi quella per il TV Samsung, quella per il TV LG, quella per il TV Panasonic, quella per il TV Sony e così via. La cosa è ovviamente inaccettabile, i costi di sviluppo sono alti, poi i costi di sviluppo per tutti i TV sono ovviamente moltiplicati ancora più alti, l'aggravante è che i produttori TV hanno dimostrato di non essere capaci di fare un sistema operativo stabile negli anni, ma ogni anno praticamente introducono un nuovo sistema operativo con l'app da riscrivere, e quindi questo fa sì che nessuno voglia più scrivere app per gli ambienti smart TV, che hanno trovato proprio qui la loro tomba. Cioè sono utilissimi potenzialmente, però se vengono gestiti in questa maniera non servono più a nessuno, anche perché uno dopo due anni si trova un TV che è diventato vecchio, per cui non vengono più sviluppate le app, eccetera, eccetera, è una cosa che fa cazzotti con la durata media di un TV, che è quantomeno 8 anni. Sì, sì. Questo nuovo standard dove ce lo troviamo? Sul televisore? Schiaccio un tasto HBBTV? Questo ci sarà un tasto ovviamente che darà il via al lancio delle applicazioni interattive, e quindi queste applicazioni interattive che finalmente si è capito che non devono essere Facebook e Twitter, cioè nessuno guarda Facebook e Twitter sul grande schermo del TV, ma devono essere legati allo streaming di contenuti video. Questo è quello che conta in un sistema televisivo, evidentemente. Soltanto che appunto questi contenuti video arriveranno dalla rete e lo faranno in maniera semplice, auspicabilmente semplice, e con il telecomando del TV, direttamente con il TV. Certo, è una nuova generazione di TV che pian piano usciranno anche le app, è una cosa che bisogna traguardare evidentemente a lungo termine, però il fatto che tutto sommato tramonti questo standard MHP che tanto ci ha fatto soffrire e poco ci ha dato... Diciamo che siamo contenti, è un buon risultato. Sì, è un buon risultato. Bene, qualcuno l'aveva detto tempo fa che insomma non avrebbe avuto anche tanta... Anche da questi microfoni. Esatto, non avrebbe avuto tanta vita questo MHP. Ultima domanda e ultima breve risposta... Quando arriva Netflix? Netflix dovrebbe arrivare prima della fine dell'anno, di certo. Grazie a Gianfranco Giardina per essere stato con noi, a presto e buon lavoro, ciao. Grazie mille. È tutto per questa puntata, come sempre grazie per la vostra attenzione. Ci risentiamo la prossima settimana, questo è 2024, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie per tutti i messaggi che ci arrivano, che ci inviate, che mi inviate, indicandomi come ascoltate 2024 nella versione podcast. Chi corre, chi fa altri tipi di sport. Non ho ancora trovato qualcuno che nuota con magari un paio di cuffie e un player impermeabile, però ci sarà anche quello magari. Cioè chi va in bicicletta, chi fa altri tipi di sport, sono moltissimi quelli che fanno sport con 2024, e poi ci sono quelli che vanno al lavoro in automobile o con i mezzi pubblici, quindi anche questo è un modo di fruizione piuttosto diffuso. Non so in quanti ascoltino 2024 mentre preparano il pranzo o la cena o fanno altre cose in cucina. Comunque continuate a scriverci, mi fa piacere, e nel limite del possibile cerco anche di rispondere a tutti gli ascoltatori, a tutti coloro che scrivono alla nostra casella di posta elettronica. Bene, ci risentiamo la prossima settimana, nella prossima puntata. 2024. 2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.